Una faccia di bronzo è una gran cosa da mostrare al mondo, ma di tanto in tanto, quando sei solo e non hai pubblico intorno, devi, penso, toglierti la maschera, nient'altro che per respirare. Altrimenti, credo proprio che soffocheresti. Oscar Wilde. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Il portiere continuava a prendermi in giro. Io stavo solo aspettando l'occasione buona per avere la mia rivincita. Palla in mezzo alle gambe e gol. Alzai l'indice, lo puntai verso di lui e dissi: "Beh, però anche tu sei forte, no?" Storie di gesti strafottenti e di martedì grasso in una puntata dedicata al cattivo gusto. Perché nonostante tutto, oggi è martedì grasso. Nonostante tutto, oggi è carnevale e noi continuiamo a raccontarvi le nostre storie. Linee d'ombra vi fornisce delle piccole pillole quotidiane della durata di un'ora all'incirca, un'ora tutti i giorni alle 15 qui su Radio 24 per ascoltare delle storie che sono un pochettino diverse da quelle che sentiamo tutti i giorni e magari un pochettino diverse rispetto a quelle che sentiamo soprattutto in questi giorni. La puntata di oggi è dedicata a qualcosa che probabilmente non è un vizio. Noi abbiamo deciso di immaginarlo come se fosse una sorta di nuovo vizio capitale. Il cattivo gusto credo sia, ahimè, una caratteristica che vediamo veramente un pochettino dappertutto intorno a noi, e riguarda le cose e riguarda un pochettino anche le persone, soprattutto riguarda quello che fanno le persone, riguarda i loro gesti, riguarda il loro modo di comportarsi. Per questo motivo oggi abbiamo messo insieme un piccolo pacchetto di storie che gira intorno a questo tema e a questo pezzo della vita di ognuno di noi. Vi dicevo, oggi è martedì grasso, qualunque cosa esso significhi, lo scopriremo più tardi, sentiremo, noi abbiamo una sorta di insider che quando c'è da tirar fuori qualcosa che ha a che fare con le origini, soprattutto le origini religiose, dei momenti, delle giornate, delle situazioni, sa dirci tutto e più tardi lo sentiremo. Il martedì grasso però abitualmente, insomma, lo sappiamo tutti, è il giorno prima della Quaresima ed è considerato grasso perché si usava finire tutto ciò che in casa si doveva finire, soprattutto la carne, per prepararsi invece ai giorni di digiuno, che sono i 40 giorni della Quaresima. Di solito ci sono dei festeggiamenti nelle città in cui lo si può fare. Appunto qui a Milano continuiamo a vivere questa fase un pochettino sospesa della nostra vita, delle nostre vite, un pochettino in tutta la Lombardia, quindi è tutto rimandato o annullato, non ci saranno grandi festeggiamenti per il carnevale. Tant'è, però, invece in giro per l'Italia ci sono, continuano ad esserci. Noi oggi vi raccontiamo due storie che parlano di cattivo gusto. Una riguarda proprio il carnevale. Il carnevale ha un pochettino, ormai come qualsiasi cosa, devo dire, ci sono quelli a favore e i detrattori, ma questo è un altro paio di maniche. Il carnevale è un pochettino come il Natale, cioè quelli che lo amano molto e quelli che invece non lo amano in maniera particolare. Io non lo amo in maniera particolare e l'avevo anche raccontato un motivo legato a una pistola scacciacani che girava per il mio paese durante le giornate di carnevale che mi terrorizzava. Io associo da sempre il carnevale a un eccesso di libertà che si respira per l'aria, concessione di tutto, si può fare un pochettino tutto durante il carnevale, o almeno quella è la sensazione, e io, che sono in fondo un po' un cagazzotto, l'ho sempre temuto moltissimo. Oggi vi racconteremo una storia che arriva da un luogo molto pericoloso dove si festeggia il carnevale e dove appunto ancor più che in altre situazioni si può veramente fare di tutto. Andremo ad Haiti a raccontare un martedì grasso vissuto da una persona che c'è stata e sulla sua pelle ha provato quell'esperienza. Ma la prima storia con cui apriamo è una storia che parla di cattivo gusto in maniera molto molto più semplice. Parla di uno sfottò, una piccola battuta che può avere conseguenze anche estreme. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Sono cresciuto nella prima metà degli anni Ottanta in un piccolo paesino adagiato sulle rive del lago di Lugano. Ultimo di tre fratelli, come tutti i bambini dell'epoca, con il sogno di diventare un calciatore. Quando fu il momento di scegliere per quale squadra tifare, la scelta per me fu fin troppo facile. Troppo bella quella Juve di Platini e dei campioni del mondo dell'82. E poi era pure la squadra di mamma. Ricordo ancora la mia rabbia quando, incontrando qualche turista tedesco che mi vedeva biondo, con i capelli a spazzola, con gli occhi azzurri, mi sentivo chiamare con «Ehi, Rumenig!». Tra le risate dei miei genitori e gli sguardi sorpresi dei turisti, io rispondevo «No, no, Platini!». Appena fu possibile, mi iscrissi nella squadra del mio paese, la Lavena Tresiana. Mancino, venni messo subito a giocare in attacco, alla sinistra principalmente, talvolta centravanti. Me la cavavo bene e subito cominciai a segnare qualche gol. Ero un calciatore abbastanza bravo tecnicamente, con non tanta voglia di correre, più bravo a far correre il pallone che non correre. Tutto mancino, il destro lo usavo praticamente solo per camminare, molto corretto, quasi mai mi capitava di essere ammonito ed ero sempre molto rispettoso dell'arbitro e degli avversari. Le squadre giovanili della Lavena Tresiana si comportavano sempre bene nei rispettivi campionati e ogni anno almeno una squadra vinceva il proprio. Io ero uno di quei giocatori corretti che quasi mai prendevano cartellini e uscivano spesso dal campo avendole prese piuttosto che date. Quell'anno giocavamo il campionato juniores e, come spesso accadeva, eravamo messi bene. Primi in classifica. Io avevo già segnato un buon numero di gol. Il giorno di Pasquetta avevamo in programma il recupero di una partita rinviata in inverno per impraticabilità del campo. Era il derby con il Cremenaga. Si giocava in casa loro e se tutto fosse andato come al solito, anche quella volta sarebbe finito tanto a poco per noi. Il mister però, quel giorno, decise, visto che la domenica successiva avremmo dovuto giocare con la seconda in classifica, che era solo a un punto da noi, di tenere in panchina tutti i migliori giocatori, per tenerli al riparo da possibili squalifiche, visto che da sempre quella era una partita piuttosto calda. Così mi trovai a guardare la partita dalla panchina, insieme a quelli che di solito erano al mio fianco in campo. Alla fine del primo tempo della partita però eravamo solo 1-0 per noi. Così l'allenatore si rivolse a me dicendomi di scaldarmi per entrare e cercare di mettere al sicuro il risultato. Entrai in campo e quasi subito mi capitò la prima occasione. Scartai il mio avversario e mi trovai da solo davanti al portiere. Tirai in porta. La palla lo superò. Ma quando già stavo per andare ad esultare, la palla si fermò in una pozzanghera che si era formata proprio davanti alla porta. E lui, con un balzo, riuscì a prenderla prima che entrasse. Io stavo per rientrare verso il centrocampo quando, una volta rilanciata la palla, sentii il portiere che mi urlava «Ehi, sei proprio un fenomeno, eh?». Io mi girai guardandolo per capire se ce l'aveva con me. E lui continuò «Grande, sei il numero uno!». Io lasciai perdere pensando alla partita della settimana successiva, ma ogni volta che mi avvicinavo alla porta, lui continuava a stuzzicarmi con prese in giro sempre più pesanti. Fu così che di lì a poco, alla prima occasione buona, misi in atto la mia vendetta. No, non mi capita di essere particolarmente vendicativo, probabilmente però quando vengo provocato e quando mi viene fatto uno sgarbo, poi appena trovo l'occasione giusta faccio in modo per prendermi la mia rivincita, insomma. Mi venne distinto, senza pensarci. Ricevetti la palla al limite dell'area. Con una finta scartai due avversari, mi trovai di nuovo a tu per tu con lui, il portiere avversario. Feci finta di tirare, lui aprì le gambe e io non ci pensai un attimo. Palla in mezzo alle gambe, tunnel e gol. Alzai l'indice, lo puntai verso di lui e dissi «Beh, però anche tu sei forte!». E intanto continuai la mia corsa per esultare. Quella che scatenai inconsapevolmente con quel mio gesto fu una vera e propria rissa in stile Bud Spencer e Terence Hill. Il portiere, offeso dal mio gesto, prese a rincorrermi, ma venne prontamente preso per il collo dalla nostra ala destra. Un altro avversario, che voleva venirmi a dire qualcosa, fu fermato da una testata della nostra mezzala. Il nostro mediano titolare, un armadio di 1,90 m, tutto muscoli, che quel giorno era in panchina, balzò in campo al grido di «Dai, picchiatemi!». Nella confusione, il fratello del portiere avversario, che era sulla sua panchina, riuscì a raggiungermi e a darmi un calcione che mi fece andare a terra. E rimasi lì, aspettando che la situazione si calmasse e che l'arbitro buttasse fuori qualche avversario. Con mia grande sorpresa, invece, l'unico ad essere buttato fuori fu io, reo di avere scatenato tutto quel finimondo, secondo l'arbitro, per avere mostrato il dito medio al portiere. Uscendo dal campo, per quella che fu l'unica espulsione della mia carriera, mi toccò sentirmi pure le urla del mio allenatore, che mi aveva mandato in campo per risolvere la partita e che alla fine la partita l'aveva sì vinta, ma mi aveva perso per lo scontro della settimana successiva. Cattivo gusto impera un po' ovunque, nelle strade, in parte nei luoghi di lavoro ed evidentemente anche nei campi di calcio. Beh, nei campi di calcio lo vediamo direi quotidianamente, se non settimanalmente, la domenica, in varie forme si evince il cattivo gusto. E in questo caso, nella storia di Paolo, è un po' una gara di cattivo gusto tra lui, che in realtà fa poi un gesto innocente, e tutti gli altri e tutto quello che si scatena dopo. Pronto, ciao Paolo, buongiorno. Ciao Matteo. Senti, quanto tempo fa succedeva questa cosa? Quasi una trentina di anni fa ormai. Però sì. c'hai una memoria ben salda rispetto all'avvenimento, direi. Beh, ma perché come dicevo è uno dei pochi avvenimenti in cui mi sono reso colpevole di qualcosa di fuori da normale, insomma. Paolo, scusa, però fughiamo qualsiasi dubbio, tu non avevi fatto il dito medio al portiere, lo avevi indicato, giusto? No, l'avevo indicato, sì, l'avevo indicato, non avevo fatto il dito medio. Senti, com'è finita? Morti e feriti sul campo? Cioè, ci sono stati dei contusi? No, niente di così grave, uno scontro così folcloristico. Non ti ha aspettato fuori? Ma mi ha aspettato fuori in un parolo vivo dopo qualche mese, però poi lì dopo nulla di fatto, niente di... Guarda Paolo, mi sa che dobbiamo richiamarti, sai, perché ti sentiamo molto male e quindi abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, ma continuiamo ad essere ad avere una linea un pochettino disturbata. Continuiamo, proviamo a richiamarti. Voi invece, se avete voglia di continuare a condividere le storie che volete mandarci, linee@radio24.it. Abbiamo intanto ritrovato Paolo. Paolo, rieccoci, forse adesso va meglio. Sì, ecco. Eccoci, va molto meglio. Tra l'altro io ringrazio molto Luca Micheli per aver messo, visto che tu citavi un film di Bud Spencer e Terence Hill, per aver messo poco fa la sigla di Bulldozer come brano a chiusura della tua storia. Senti, tu che cosa fai nella vita adesso, Paolo? Io faccio il rappresentante per un'azienda che produce generi alimentari, per bar, ristoranti. Ok, quindi diciamo, sei una persona che ha a che fare con il pubblico, sei uno che sa mediare. Tutti i giorni, sì, per forza. Non ti è mai più capitato di avere delle reazioni in consulta tipo quelle? No, assolutamente. Senti, a calcio sono molto più calmo. A calcio hai continuato a giocarci in qualche modo? Io ho continuato a giocarci fino a quando uno di quei tanti calci che prendevo durante le partite non mi ha fatto rompere un crociato, quindi poi alla fine ho abbandonato per infortunio. E sei andato avanti anni, un po' come dice mio padre, che si era rotto il menisco, a dire: se non mi fossi rotto quel ginocchio, adesso io sarei stato, adesso no, perché tu c'hai tipo 40 e passa anni, sarei stato titolare nella tua Juventus, immagino. Ah, sicuramente, per molti anni, sì. Paolo, in che zona vivi e in che zona lavori? Nel nord di Varese, confine con la Svizzera, sono rimasto lì sulle sponde del lago di Lugano, da quelle parti, insomma. Senti, ti lascio andare a lavorare, mi sa che sei in automobile, probabilmente la linea è un po' disturbata anche per quella. Ti ringrazio però per la storia e per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi per la trasmissione, bravissimi tutti. Grazie. Ciao, ciao Paolo. Ciao, ciao. Yeah! Kick it! Ognuno poi, diciamo, ha la propria sensibilità rispetto al cattivo gusto, al buono e al cattivo gusto. Io devo dire che sono stato molto colpito questa notte da alcune immagini che sono arrivate e che dagli Stati Uniti, che scorrono probabilmente in questo momento anche sugli schermi televisivi o sui vostri telefoni, se siete su qualche social network, che riguardano il memoriale che si è tenuto ieri notte a Los Angeles per salutare Kobe Bryant, in cui c'erano presenti moltissime persone del mondo dello spettacolo, ma in particolare del mondo dello sport e in particolare del basket. Tra le varie persone che hanno preso la parola per salutare a modo loro Kobe Bryant, uno è stato Michael Jordan. Michael Jordan, tutti immaginavano che Kobe Bryant fosse il suo successore, e Michael Jordan ha fatto uno speech meraviglioso di una dozzina di minuti parlando di Kobe Bryant come del suo fratello minore. Ecco, quelli, probabilmente quelli sono i momenti in cui il rischio retorica e cattivo gusto è più alto. Se per caso avete modo di andare a vedervelo, di andare a guardarvelo, guardate come Michael Jordan parla di una persona che è scomparsa poco tempo fa, di una persona che tutto il mondo già ricorda, spesso in maniera appunto in qualche modo retorica, e il modo in cui riesce addirittura a far ridere tutti i presenti, compresa la moglie di Kobe Bryant, raccontando di alcuni aneddoti che lo legavano a quella persona e facendo la cosa che probabilmente anche in quei momenti è la cosa migliore, cioè raccontando delle piccole storie. Quante volte, ascoltando le nostre storie, ti è capitato di pensare: anche io ho vissuto una cosa simile? Anch'io ho una storia da raccontare. Ecco, se ti è accaduto, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un vizio capitale, uno dei 7 antichi o uno dei nuovi vizi, quelli in cui incappiamo ogni giorno nel corso delle nostre giornate. E poi spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. E tra i nuovi vizi capitali abbiamo individuato questo nuovo vizio capitale, il cattivo gusto. Lo abbiamo individuato grazie alle storie che continuate a mandarci e che vi chiediamo di continuare a mandarci. Siamo felicissimi di riceverle e di raccontarle. lineedombra@radio24.it è l'indirizzo a cui inviarle. Stiamo per raccontarvi un'altra storia che appunto ha a che fare con il cattivo gusto, anche se va molto lontano rispetto ad un calcio, ad un campo di calcio di 30 anni fa nella provincia, nell'alta provincia italiana dalle parti della Svizzera. Perché andiamo invece in una sorta di paradiso, un vero e proprio paradiso caraibico. Andiamo ad Haiti, un luogo che però è stato da prima martoriato qualche anno fa da un terremoto che ha devastato parte dell'isola e sicuramente della capitale, Port-au-Prince. E noi andiamo proprio lì, andiamo a Port-au-Prince e cerchiamo di stare con una persona che si chiama Flip Oelsinger. Flip Oelsinger è un reporter, è un fotografo che si era recato ad Haiti, a Port-au-Prince, per fare qualche lavoro e per starci qualche mese. Poi in realtà si è fermato a vivere parecchio tempo. Stiamo con lui perché cerchiamo di capire che cosa accade durante una festa di carnevale in un posto come quello, no? Una delle feste di carnevale più famose e nere probabilmente al mondo. Si svolge ogni anno durante proprio questo giorno, il Martedì Grasso, lì ad Haiti, e a raccontarla è proprio la voce di Flip Oelsinger. State con noi. Deve essere stato dopo mezzanotte quando è accaduto. All'incirca nel momento in cui il carnevale scoppia a Cité Soleil, un ghetto che ospita 500.000 di abitanti a Port-au-Prince, nel suo labirinto di strade secondarie, baracche, probabilmente uno dei luoghi più pericolosi in cui vivere al mondo. Non c'era posto che avesse sofferto più rapimenti e uccisioni di quello, secondo le statistiche del crimine. E anche quei numeri erano in realtà impossibili da verificare, considerando che la raccolta differenziata nei quartieri tra le baracche era addirittura così pericolosa che la polizia non poteva entrare. Cité Soleil era la mia casa. Avrei dovuto andarmene dopo il mio primo o secondo anno lì a Cité Soleil, ma quella vita nei bassi fondi era diversa da qualsiasi altra che avevo sperimentato. Era primitiva, compassionevole, creativa. Ogni giorno qui c'era un pericolo diverso e la follia in qualche modo creava dipendenza. Io ero anche diventato un sostenitore di Afriel, capo di una banda che era una sorta di riformatore politico, a cui ero addirittura arrivato a credere, nonostante sapessi che avevo ucciso o ordinato l'uccisione di altri nella baraccopoli. Vivevo lì sotto la sua protezione, a Cité Soleil, zona più malfamata e inquinata della baraccopoli, con le sue baracche di stagno, le montagne di cenere e di carbone, cadaveri abbandonati che a volte marcivano lungo il litorale, cosparso di spazzatura. Solo il suo nome era precursore di ciò che doveva venire. Afriel significava piccolo angelo. Io avevo affittato un appartamento in Rue 22. Avevo fatto la scelta rischiosa di avventurarmi in strada proprio durante il carnevale. Ero con Afriel e i suoi ragazzi, sorta di luogotenenti, che mi tenevano al sicuro in mezzo a una folla che cresceva di ora in ora. Centinaia di corpi che pulsavano l'uno contro l'altro, la musica conpa che batteva contro l'aria piena di fumo. Bottiglie di birra passate da carriole piene di blocchi di ghiaccio coperti di segatura. Donne che friggevano carne in grandi pentole scaldate da braci ardenti. E proprio lì, sotto il portico di una casa vicina, all'improvviso, eccolo. Si era formata una folla che spingeva. Al centro c'era lui, Tike Meri, il generale dei bassi fondi. Signore della guerra dei signori della guerra, un nome che significa ad Haiti piccolo criminale. Era ubriaco e circondato da una cerchia di donne più giovani. Era scoppiata una discussione. Chimeri emise un urlo e poi lo vidi, allungò la mano e afferrò una delle sue ragazze per la gola e cominciò a stringere. Il nucleo della baraccopoli stava scoppiando, un vulcano di violenza stava per esplodere. Il generale aveva la gola di una ragazza in mano. Stava per essere eseguita letteralmente una sentenza. Io mi sono rivolto ad Afriel per avvertirlo, ma lui era già partito e ora si stava facendo strada tra la folla, sgomitando tra la confusione per affrontare il generale. Una guerra di bande carnevalesche, ho pensato, è imminente. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields the bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Era martedì grasso, eravamo ad Haiti, eravamo a Port-au-Prince, le strade turbinavano di caos e Afriel, il mio angelo custode, era scomparso. Lo vidi spingere verso il portico della casa dove si era formata una folla, proprio attorno a Chimeri. Il generale aveva le mani attorno alla gola di una ragazza adolescente. È stato un momento orribile. Durante tutto l'anno i capi della banda avevano lottato per il potere nella baraccopoli. Erano in guerra per denaro e armi. Chimeri era stato eletto dai capi come il loro presidente di fatto. Ciascuno a capo di un distretto nei bassi fondi, con la responsabilità di mantenere l'ordine e guadagnare tangenti. La mancanza di risorse li aveva costretti a costruire coalizioni, ma con l'afflusso di denaro e di armi in anticipo rispetto alle elezioni presidenziali, l'avidità aveva preso il sopravvento. Un gruppo di disperati, abbrutiti e violenti, erano finiti sotto la competenza di Chimeri, chiamato il generale, ormai ubriaco e accecato da quel nero carnevale haitiano. Nella mischia, il mio angelo custode, Afriel, aveva intanto raggiunto il portico, dove quel pazzo teneva una giovane per il collo, e insieme ad altri lo avevano convinto a non sacrificare la ragazza, in una improvvisa dimostrazione di potere e di paura che i suoi disperati stavano sostenendo con urla e canti. Chimeri ha ordinato a tutte le famiglie dei suoi disperati di lasciare le loro case e andarsene, mi disse Afriel al suo ritorno. È assetato di sangue, continuò, sostenendo di aver provato a ragionare con lui. Gli ho detto che se avesse attuato quella vendetta sulle famiglie, sarebbe diventato un nemico permanente di tutti. La ragazza che Chimeri aveva afferrato per la gola era la moglie di uno di quei disperati e si stava diffondendo la voce che Chimeri avrebbe scatenato una folla per colpire le famiglie di tutti quei disadattati. Era una prospettiva spaventosa anche per questo luogo. Intanto la festa andò avanti. Da qualche altra parte in città, a Port-au-Prince e in tutta la nazione di Haiti, era in corso una festa diversa, più tradizionale. I carri allegorici del carnevale riempivano le strade e i frequentatori delle sfilate erano vestiti con costumi, cartapesta. Alcuni portavano statue, altri erano coperti di vernice dorata e glitter. Nella folla le donne sfilavano nelle masse indossando copricapi elaborati a forma di leoni, tigri, demoni rossi, simboli degli spiriti voodoo. Ma dove eravamo noi a Cité Soleil non c'erano costumi, perché quelli che vivevano qui non avrebbero mai speso i loro soldi disegnando demoni su cartapesta. Qui i demoni erano reali e allargavano le loro ali per le strade del quartiere. In questa notte però un angelo oscuro ne aveva abbattuto un altro. This is a waltz thinking about our bodies, what they mean for our salvation. With only the clothes that we stand up. Just the grass. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata in un sito, in un magazine che racconta moltissime storie, si chiama appunto Narratively, non per caso, narrative.ly, dove L e Y chiudono dopo il punto, e l'ha scritta proprio Flip Holzinger, che è questo reporter che ha tra l'altro scattato delle immagini meravigliose di quel carnevale e ha raccontato questa storia. Questa storia si intitola The Time I Celebrated Carnival with Gang Leaders in Haiti, la volta in cui ho celebrato il carnevale con i leader delle gang di Haiti. È un racconto molto cupo, se volete riascoltarlo potete riascoltarlo sul nostro podcast oppure farvi una piccola ricerca e troverete anche delle immagini meravigliose. È una puntata dedicata al cattivo gusto, ma abbiamo parlato chiaramente del carnevale, abbiamo accennato in apertura alla Quaresima e tra poco cercheremo di fare una sorta di domande sul carnevale e sulla Quaresima for dummies, cioè cercheremo di scoprire esattamente da dove nasce, perché e che senso ha, un po' come capita spesso con le feste che festeggiamo, ci passano addosso senza sapere veramente da dove arrivano, e tra poco sentiremo il professor Stefano Grossi, che spesso sentiamo per questioni teologiche e di ricorrenze. Ora però lasciamo la linea alle strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E allora è carnevale, martedì grasso, da dove arriva e perché? Noi abbiamo il nostro teologo di riferimento, l'abbiamo già sentito un paio di volte, lui è docente di etica della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale ed è direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana, il professor Stefano Grossi. Professor Grossi, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Sì, bene, grazie. Professor Grossi, io ho scoperto una cosa, l'ho scoperta adesso, per dire i miei livelli di ignoranza, che il termine carnevale deriva dal latino carnem levare, cioè privarsi della carne. Quindi esattamente perché nasce il carnevale, da dove arriva e verso cosa ci porta? Non è una festa religiosa innanzitutto, o è a metà, dico bene? Allora, sì, nel senso che in realtà non lo sappiamo esattamente, cioè il carnevale è una di quelle feste, potremmo chiamarla del rivolgimento, cioè è un giorno in cui i ruoli sociali, le usanze, i modi si rivolgono, si stravolgono completamente, no? E questo fa parte di molte culture, e quindi c'era già prima del cristianesimo qualcosa di simile. Il cristianesimo, come ha fatto con molti altri fenomeni religiosi che già trovava presenti, in qualche modo l'ha adattato alle proprie esigenze, ecco, l'ha inserito in un contesto nuovo e quindi, pur mantenendo certi significati che di per sé il carnevale non ha nessun valore direttamente religioso, però è stato inserito in un contesto religioso. Perché potrebbe avere origine da una festa ebraica, dico bene? Allora, ci potrebbe essere un certo collegamento con la festa dei Purim, però non è storicamente verificabile. La festa dei Purim spesso viene chiamata, non dagli ebrei, ma da chi la vede, il carnevale ebraico, perché è una festa in cui i ragazzi si mascherano e anche qui festeggia lo stravolgimento di una sorte che vedeva Israele nel pericolo di essere sterminato e che invece si rivolta contro i suoi persecutori. E quindi anche qui è una festa di uno stravolgimento, però positivo, perché Israele si salva e i suoi nemici no. Chiarissimo. E allora per celebrarla nasce questa festa dei Purim, che però non è una festa comandata, diciamo così, nella Bibbia, però è diventata una festa importante, popolare, soprattutto per i bambini. Che il legame principale, diciamo, cristiano e cattolico ce l'ha con la Quaresima, giusto? Cioè con il fatto che prima del grande digiuno, che arrivi poi la festa, le feste pasquali, come dire, ce la si gode per finire quello che c'è da finire. Sì, ecco, l'idea è un po' questa, è il giorno in cui si eccede un attimo sapendo che poi da lì in poi entriamo in un tempo di conversione, in un tempo che chiede un tipo di attenzione più ascetica verso la vita, diciamo più che ascetica, direi essenziale, cioè di andare a cercare il cuore delle situazioni, delle realtà, della propria umanità. Questa è la Quaresima, giusto? Questa diventa la Quaresima, appunto. Ecco perché dicevo che è stata un po' agganciata in questo modo, ecco. Quindi la definizione Quaresima arriva da cuore? 40 giorni. Ah, certo, banalmente, 40 giorni. Sono i 40 giorni di Gesù nel deserto, che diventa, poi 40 è un numero simbolico nella Bibbia, è il numero che indica un tempo compiuto, il tempo necessario perché una cosa sia compiuta nel miglior modo. Allora, sì, direi che in questo periodo, tra l'altro, esatto, tra l'altro il numero 40, anche per quanto riguarda il termine quarantena, che si sente moltissimo in questi giorni, sì, vale esatto, chiaramente in maniera, diciamo, in valore, con un valore relativo, perché poi i 40 sì, giorni non sono esattamente 40, ma ha a che fare con un periodo di isolamento in questo caso, o di digiuno, come dice lei, esatto, o di essenzialità. Professor Grossi è sempre molto gentile, molto preciso, e noi, se possibile, la disturberemo ancora. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. A presto. Buona giornata. Oh, life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know. Said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confession. Trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind. Oh, oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Vorrei rispondere a un messaggio che mi manda Martin al 349-238-6666 e scusarmi evidentemente perché non mi sono spiegato male io, perché lui mi dice: non sono d'accordo con te sul cattivo gusto di Michael Jordan rispetto al discorso di Kobe Bryant. E in realtà siamo d'accordo, perché io dicevo esattamente il contrario, dicevo che in situazioni come questi può uscire della retorica di cattivo gusto, invece lui è stato magnifico nel raccontare a modo suo, nel poter ridere. Credo che sia un atto di grande buon gusto quello di poter giocare anche con la memoria di persone che non ci sono più e poterle ricordare con un sorriso sulle labbra e non solo con le lacrime agli occhi, che tra l'altro lui ha avuto per tutto il tempo, cioè nonostante, però ne ha parlato e lo ha ricordato in maniera magnifica. Ora continuiamo a raccontare e continuiamo a parlare di quel pezzo di storia seriale che vi raccontiamo giorno dopo giorno. Mauro Pescio ha scovato, ha trovato e ha intervistato questa giovane ragazza di origini italiane. Il padre è italiano e durante la storia sentirete il padre che parla in italiano, lei che parla in inglese, perché quando era molto piccola i genitori da Roma, dall'Italia, l'hanno portata prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, per cercare di farla crescere nel migliore dei modi possibili. E ahimè sono incappati in una di quelle tragedie che spesso capitano, purtroppo, nelle scuole americane. Stiamo parlando del massacro alla Marjorie Stoneman Douglas High School in Florida del 14 febbraio del 2018. Cheryl, la protagonista di questa storia, era lì e ci racconta quotidianamente che cosa è accaduto in quella scuola. Cioè, tu lo conoscevi questo ragazzo, Cheryl? I would see him around and I knew. Lo vedevo girare intorno. Anzi, posso dire che lo conoscevo per davvero, perché uno dei suoi più cari amici era amico della mia migliore amica. Lei mi diceva continuamente che era completamente pazzo, appassionato di armi, molto aggressivo. Anche con noi lo era stato. Una volta stavamo pranzando in un bar e ci venne incontro come se ci volesse attaccare. Nel mio gruppo lo conoscevamo ed eravamo anche un po' spaventate dai suoi racconti, che erano sempre terrificanti. Non era facile parlare con lui, interagire con lui, e non lo facevo volentieri. Tutte le volte che lo incontravo c'erano delle vibrazioni strane, no, non lo facevo volentieri. Pensavo, uff, eccolo di nuovo. Non era un ragazzo stabile. Because he was friends with my best friend for a while. Sì, alla fine io, anche prima, ho sempre pensato che fosse un tipo pericoloso, proprio perché era amico di un mio amico. Lui mi raccontava di questo ragazzo come di un ragazzo violento, parlava sempre di cose orribili, che avrebbe voluto uccidere qualcuno. Su Instagram aveva un profilo pieno di animali morti che diceva di aver ammazzato lui. Un altro mio amico è stato attaccato mentre mangiavano e lui lo ha aggredito per il semplice fatto che stava uscendo con una ragazza di cui lui era ossessionato, ma che non aveva voglia di starci insieme a lui. Mentre il mio amico stava cenando insieme a noi, lui è arrivato da dietro, senza farsi sentire. Gli è saltato addosso con un balzo da assalto, lo ha colpito alla testa, senza che il mio amico potesse controbattere. È stato terribilmente violento. Così violento che sono dovuto intervenire in cinque per riuscire a staccarlo. Era stato allontanato da scuola. Girava sempre armato di coltelli, più di uno. Infatti loro mi fecero il nome suo prima ancora che uscisse nelle notizie, penso che... Ovvero? Sì, perché io ero in contatto con lei durante tutto il... quando è successo tutto, io ero in contatto telefonico con lei. Ed è girato il nome suo prima ancora che le notizie lo tirassero fuori. Prima che lo arrestassero già sapevamo chi era praticamente. Noi continuiamo a raccontare storie, lo facciamo tutti i giorni qui dal lunedì al venerdì su Radio 24. Stiamo per chiudere anche questo appuntamento di Linee d'Ombra del martedì, ma vi dicevo, continuiamo a raccontarle, continuate a inviarcele, lineedombra@radio24.it. Tra i vari effetti benefici che ha la condivisione delle proprie storie ce ne sono almeno un paio a cui teniamo moltissimo. La prima è che davvero condividere delle storie ci permette di conoscere pezzi diversi del mondo, pezzi diversi di questo paese, anche molto banalmente. La seconda è che avvicina le persone. Quando sentiamo la storia di qualcuno e quel qualcuno ce l'ha raccontata in maniera onesta e sincera, alla fine gli vogliamo un pochettino più bene. lineedombra@radio24.it per mandarci la vostra storia. Lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!